Affacciati alla finestra, amore mio. Affacciati alla finestra. Bella mia. Bella mia. Ta-tan. Io non ti prometto qualcosa che non ho. Che ma tu chiedi a me, i due ma movimenti. Se te lo dico, chiedi a me che so. Perché ma a forza di sentirlo. Quello che non sono, non posso essere. No, non sei un asinello, dai. Allora, ma qua perché parliamo pure dello stesso? Come le gemelline siamese. Comincia tu, se no qua finiamo. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Si avvicinano le vacanze, il meritato riposo, sentiamo di averne bisogno, ci sentiamo scarichi, senza energia, non vediamo l'ora di staccare per riprendere il fiato, espressione che ben racconta quella sensazione di peso, di oppressione con cui molti di noi si confrontano quasi quotidianamente. C'è chi dà la colpa alla stanchezza, chi alle preoccupazioni economiche, chi al lavoro. E sì, possiamo definirla l'ennesima estate di crisi sotto tanti aspetti. A proposito di lavoro, per esempio, guardando all'Italia, basta pensare al tasso di disoccupazione che è quasi vicino al 13%, è il dato più recente diffuso dall'Istat, ma spingendo lo sguardo anche al di fuori dello stivale, la situazione politica internazionale oggi ci mette di fronte a nuova difficoltà e ci fa riflettere ogni giorno. Due guerre in corso, peraltro anche piuttosto vicine a noi, la tragedia aerea in Ucraina. Sono notizie che colpiscono e che fanno sorgere domande e pensieri. Eh sì, in fondo sono tanti i motivi che giustificano quella fatica che si prova ad affrontare la giornata, a pensare al futuro e direi proprio a trovare la forza di resistere, di andare avanti, al punto che anche le vacanze, di cui abbiamo parlato proprio di recente, sì, possono trasformarsi in un ulteriore motivo di disagio. E quando proprio abbiamo dedicato una puntata all'organizzazione del periodo di relax delle vacanze, alcuni ascoltatori ci hanno scritto raccontandoci di affrontare questo periodo dell'anno con un alto livello di ansia. C'è chi denuncia un aumento dello stress, chi invece si sente senza forze, con un umore grigio, direi tendente al nero, chi parla invece di una tristezza diffusa. Insomma, stiamo pagando con gli interessi gli effetti della crisi. A conferma sempre i dati dell'Istat pubblicati il 10 luglio, che evidenziano un peggioramento della salute mentale rispetto al 2005. D'altronde Deborah c'era da aspettarselo. E allora spieghiamo i nostri ascoltatori cosa indicano questi dati. La depressione è il problema di salute mentale più diffuso e il più sensibile all'impatto della crisi, riguarda circa 2.600.000 individui, il 4,3% rispetto alla popolazione totale, con prevalenza doppia delle donne rispetto agli uomini. Noi siamo infatti più vulnerabili. Mm-hmm. Ansia, depressione, tristezza, stress, parole che noi usiamo spesso come sinonimi, ma che invece delineano dei quadri ben diversi. Allora cerchiamo oggi di fare chiarezza. Intanto proviamo a riflettere sul significato che diamo alla parola ansia. Quando diciamo l'ansia, cosa intendiamo esattamente? Proviamo a raccontarcelo. Se avete quindi la sensazione che il vostro livello di ansia abbia superato i limiti da voi tollerati e se notate che situazioni, occasioni con tempo affrontavate, non dico alla leggera, ma con successo e senza problemi, diventano improvvisamente insormontabili, chiamateci e diteci anche qual è la paura, il pensiero, la situazione che vi attiva mettendovi in uno stato di allerta o di frustrazione. 800 24 0024. Ma cos'ha la mia faccia che tutti mi chiedono perché sono triste? Me lo dicono in casa, me lo dicono gli amici, anche quelli che non conosco. Non c'è niente da ridere. Tre tristezza, paura, pessimismo, apprensione, astenia, pensieri ricorrenti, mancanza di forze, allerta, continue condizioni che descrivono uno stato di malessere che generalmente noi chiamiamo ansia. Però io credo che generalizzare non ci aiuti. Per questo oggi, insieme a Deborah e i nostri esperti, proveremo a fare chiarezza, iniziando ad esempio a chiamare le cose con il loro nome. Ci aiuta oggi il professor Claudio Mencacci, direttore del Dipartimento di Psichiatria all'azienda ospedaliera Fate Bene Fratelli di Milano. Buongiorno professore. Buongiorno a voi gli ascoltatori. Professor Mencacci, ansia. Questa è una parola che è entrata nel nostro vocabolario quotidiano. Noi la utilizziamo per descrivere stati emotivi diversi, ma anche alcuni sintomi fisici. C'è ad esempio chi la usa per dire che è sotto pressione, chi per descrivere una sensazione di inadeguatezza, chi ancora per dare un nome alla tristezza, al senso di sconforto che un po' caratterizzano la sua giornata, ma anche per dare una spiegazione alla difficoltà a digerire, al mal di testa, alla tachicardia, alla mancanza di respiro, all'insonnia. Professor Mencacci, non c'è il rischio di fare, come si dice banalmente, di ogni erba un fascio? Il rischio sicuramente c'è, viene ricorso, anche perché l'ansia la sperimentiamo tutti, ma quello che facciamo difficoltà è riconoscere l'ansia fisiologica, quella naturale che ci permette di affrontare le novità, trovare soluzioni, quelle che ci permette anche di essere competitivi, e quando l'ansia, salendo in quantità, intensità e durata nel tempo, diventa patologica. E allora quando la troviamo nella sua forma più acuta, quando insorge improvvisamente come un fulmine a ciel sereno, lì la chiamiamo panico, perché raggiunge un'intensità molto alta e la persona sperimenta sentimenti di paura di morire, paura di impazzire, e qui tutta la ricchezza dei sintomi somatici. Calcoli che noi consideriamo circa 120 i sintomi che possono essere collegati ad un disturbo panico. E poi abbiamo quella che è l'ansia cronica, cioè il modo di affrontare l'esistenza in costante stato di preoccupazione, di allerta, di paura, dove ogni difficoltà diventa un qualcosa di estremamente difficoltoso da affrontare, e di fronte a tutto questo ovviamente le persone ne soffrono pesantemente, hanno molte perdite anche da un punto di vista affettivo, relazionale, sociale, e ovviamente sono più incline poi a sviluppare anche altri disturbi. E qui voglio ricordare non solo la depressione, ma di un qualcosa di cui si parla ancora troppo poco, che sono gli abusi d'alcol. Questo può essere infatti una spia che qualcosa dentro di noi si è rotto. Il ricorso all'alcol può essere un segnale da tenere in grande considerazione, professor Mencacci. Ma questo è proprio un dato. Da un lato è un'allerta che in questo momento tutta la comunità europea sta lanciando alla popolazione in Europa, proprio perché i disturbi della salute mentale coinvolgono il 38% della popolazione europea, quindi parliamo di numeri alti. Numeri altissimi, il 26% delle disabilità, quindi è un problema di tutta la comunità, è un problema che collega la salute mentale all'economia. Si sa che c'è un rapporto e la salute mentale pesa il 3-4% del PIL di una nazione, quindi è importantissimo quello che state facendo. L'alcol è una spia, soprattutto nelle modalità dei giovani che oggi hanno di bere, del binge drinking, ma soprattutto poi del ricorrere anche nella popolazione adulta ad abusi d'alcol, con un carico economico che viene considerato ogni anno circa di 22 miliardi di euro, quindi cifre altissime per le conseguenze legate all'alcol e agli suoi abusi. Professor Mencacci, abbiamo chiesto agli ascoltatori di raccontarci a che cosa fanno riferimento quando dicono ho l'ansia, e vedo già moltissime testimonianze, molti ascoltatori sono pronti ad intervenire e ci sono già degli sms, per esempio, a parte quelli sul lavoro che commenteremo anche magari nella seconda parte del programma. C'è Lello da Vicenza, Nicoletta non so se hai visto, sì. Dice: ormai sono arrivata al punto che ogni volta che sento il rumore dello scooter del postino tremo, quindi uno stato d'ansia legato ad una circostanza precisa. Questa emozione si presenta in un numero molto vasto di forme, no? Che credo sia quasi impossibile trovare due persone che ne riferiscano in maniera identica. Professor Mencacci, questo quadro così variegato ha però degli elementi in comune? Possiamo provare ad evidenziarli questi elementi? Gli elementi in comune, lei ha detto giustamente, consideriamo che esistono circa 500 fobie, quindi dice i numeri enormi e le diversità, ma che qual è l'elemento in comune? È uno stato costante di allerta, la persona è come se fosse in una sorta di preparazione, un po' da combattimento, sia che possa arrivare ovviamente delle notizie negative, come in questo caso, o che possa succedere qualcosa a se stesso, ai propri familiari, e che possa cambiare la situazione. Ovviamente tutto viene letto dal nostro cervello come una visione negativa, pessimista, e nei segni che si vedono fuori si colgono gli elementi negativi e non si colgono più gli elementi positivi. A questo si aggiungono poi una serie di stati di tensione che vanno ovviamente dai più semplici, aumento della pressione piuttosto che dei battiti cardiaci, difficoltà digestive, ma un altro tema di fondo che sono le difficoltà del sonno. Cioè una persona in uno stato d'ansia avrà frequentemente difficoltà anche a riposare, quindi difficoltà sia a prendere sonno, sia a risvegli notturni, sonno non riposante. Capite che i segni sono tanti e soprattutto quello che voglio dire, ci sono molti segni che arrivano con un grande anticipo di cui noi diamo una scarsa attenzione e valutazione, anche perché ricordo, e poi se avremo modo di parlare, l'ansia ha una conseguenza biologica sul nostro corpo enorme, cioè oggi la conosciamo in maniera molto più dettagliata tutto quello che comporta, ecco. Sì, noi tendiamo a sottovalutare i sintomi, pensiamo di farcela da sola, non vogliamo parlarne perché ammettere di essere fragili costa. 800 24 00 24, ci state scrivendo i vostri messaggi, voglio leggerne uno di Gabriella che ci ha dato la sua definizione dell'ansia. Quando le abbiamo chiesto che cosa intendi quando dici ho l'ansia. Per Gabriella l'ansia è come avere a fianco una sirena di allarme sempre accesa, ti confonde, appiattisce le cose intorno a te, non ti consente di distinguere più tra gioia e dolore perché ti senti in emergenza continua. Professor Mencacci, Gabriella ha tradotto quello che lei ha detto, no, nel raccontarci quali sono i meccanismi, le conseguenze dell'ansia. Ma dobbiamo pensare che c'è una vera e propria area del nostro cervello che ha un nome che si chiama amigdala, che rimane in uno stato di allerta. Questa funzione del nostro cervello ha permesso alla nostra specie di svilupparsi, quella che ci permette di riconoscere se un ramo marrone è un ramo o una vipera. Ma il problema è che quando si accende è per non una situazione di pericolo reale, ma per delle situazioni che sono percepite invece come un potenziale pericolo, pur magari non essendolo. Dan, vogliamo leggere i messaggi che veramente sono molto impattanti? Un pochino anche da donna di denari mi ha colpito quello di Andrea da Reggio Emilia che ci racconta: da anni ho tutti i sintomi di ansia, preoccupazione costante, sono stato da uno psicologo, un po' mi ha aiutato, ma da operaio non posso permettermelo, come posso fare? Andrea mi ha colpito perché possiamo fare un parallelo un po' anche proprio con la gestione del risparmio. Qualche volta suggeriamo agli ascoltatori di andare da dei bravi consulenti, ma molti dicono: io ho poco risparmio e non credo di avere la dignità economica per potermi rivolgere ad un professionista che si prenda cura di me. Anche da quel punto di vista è un tema. Invece, professor Mencacci, è possibile? Professore? Professor, oh mannaggia, il professor Mencacci è caduta la linea. È importante che oggi al nostro numero verde arrivino delle chiamate per denunciare questo stato di disagio a cui talvolta noi non vogliamo dare ascolto, proprio perché abbiamo, come hai letto tu Andrea da Reggio Emilia, paura di affrontarlo e pensiamo di non avere proprio le risorse per farlo. Silvia ci scrive: ho sofferto talmente tanto di ansia con molte conseguenze che non posso più tornare a quei picchi per il momento. Per rasserenarmi penso che tanto prima o poi si muore. Paradossale. Il professor Mencacci è tornato con noi. Professore? Eccomi, vogliamo dare un aiuto ad Andrea che ci scrive da Reggio Emilia e che dice: io sono un operaio, avverto ansia, preoccupazione costante, quindi ha la consapevolezza di aver bisogno di un aiuto ma non se lo può permettere. Professor Mencacci. Io quello che posso consigliare è questo: lui ha dei presenze sul territorio importanti, uno è il suo medico di medicina generale, non dimentichiamoci che questi i nostri colleghi sono addestrati e preparati, e la seconda ha dei centri di salute mentale che sono su tutto il territorio nazionale, al quale può rivolgersi. Ovviamente se la sua, come forma d'ansia che descrive, e che essendo da anni una forma d'ansia che rasenta un po' la cronicità, può trovare diverse risposte, ovviamente sia di carattere medico sia di carattere psicologico, ma questi centri sono su tutto il territorio nazionale, quindi lo inviterei a recarvisi. Non vorrei che ci fosse, professor Mencacci, un po' il pregiudizio che quando un servizio non devi pagarlo magari ti viene prestato in maniera un po' più superficiale. Possiamo rassicurare da questo? Io posso veramente rassicurare, essendo past president della Società Italiana di Psichiatria, quindi assumo le responsabilità di dirle che le persone che sono nei centri di salute mentale, il personale è molto ben formato e sono veramente degli specialisti molto capaci, e soprattutto oggi il tema di questi si chiamano disturbi affettivi comuni, per dire proprio quanto sono diffusi, sono, come dire, ovviamente pronti tutti i centri ad affrontarlo. Professore, lei però ne abbiamo parlato tante volte insieme a Essere Benessere, sa che c'è una paura delle persone nei confronti dello psichiatra, perché lo psichiatra è lo specialista della mente, del cervello, solitamente si pensa che lo psichiatra necessariamente ti dia farmaci, che esatto, questi creino dipendenza, insomma si pensa di finire in un girone da cui è difficile poi uscire. E poi, insomma, lei mi insegna, essendo psichiatra, che il cervello è una parte, la mente è qualche cosa di cui tutti noi abbiamo un rispetto infinito, ma di cui abbiamo anche molta paura, no? Di avere una malattia, di essere etichettati come malati mentali. Ma questo vorrei proprio spezzare una lancia. Purtroppo nel nostro paese, e devo dire anche in parte in Europa, chi riesce ad avere le cure adeguate è circa il 10%. Ecco. Questo ci dice che la restante 90% che ne avrebbe bisogno non si avvicina alle cure, proprio perché tutti questi fantasmi compaiono, paure, e quindi ci si rivolge a volte specialisti formati, meno formati, cure che non hanno nessuna validità, e si perde tempo, non ci si cura e le cose peggiorano. Quindi direi, vediamo di affrontare il tema come lo faremo per qualunque altra patologia, rivolgiamoci a chi sono gli specialisti di riferimento in assoluto, e sono gli psichiatri, e poi valutiamo tutte le opzioni di cura. Questo direi che fa parte di affrontarlo in maniera laica e sicuramente scientifica. 800 24 00 24, questo è il numero verde per provare a chiamare per nome, a individuare quello stato di malessere che molti di noi avvertono, con cui si confrontano e che forse hanno paura, timore di guardare in faccia. Roberto, buongiorno, ci chiama da Ascoli. Buongiorno. Buongiorno Roberto. Sì, ci dica. Aspetta, ecco, il mio problema è questo qui, che molte volte a seguito del mio carattere, a seguito un po' dallo stress, dal troppo lavoro, mi capita che in momenti particolari devo urinare spesso, anche a distanza di pochi minuti, anche la notte alcune volte mi sveglio, mi si irrita il colon, e quindi diciamo queste problematiche qui. Il troppo lavoro, Roberto? È anche dovuto anche un po' alle preoccupazioni, allo stress, momenti particolari. Allora, guardi, io intanto le posso dire, visto che più tardi parleremo anche di quanto la disoccupazione oggi invece incida relativamente al problema appunto di cui stiamo parlando, mettiamola poi in positivo: se ne ha molto, guardi attorno a sé e pensi a quelli che non ce l'hanno in questo momento. Adesso non voglio ovviamente banalizzare, ma trattarlo con grande rispetto, però mi veniva anche un po' da così riflettere su questo, però anche il troppo qualche volta, no Nicoletta, può assolutamente essere. Professor Mencacci. Ha descritto dei sintomi frequentissimi, cioè il colon irritabile, il corpo parla. Si chiama pollacchiuria, quello di andare così tanto spesso, un nome un po' tecnico, un po' meno bello, ma dice due cose fisiche. Allora, dicono da un lato che le nostre funzioni renali si modificano, quindi c'è un maggiore bisogno di ricorrere alle menzioni frequenti, e che il colon, che è ben rappresentato anche nel cervello, non a caso parliamo dei due cervelli, quello che abbiamo nella scatola cranica e quello che abbiamo nell'intestino, sono così strettamente correlati che quando c'è un sovraccarico si aumentano le funzioni di evacuazione. Questa è veramente una condizione che descrive classica, e sono i punti di fragilità di un individuo. Ognuno di noi ha dei punti di fragilità, ma è di questi di cui dovremmo tenere conto. Questo è il concetto, lo sappiamo, e quindi dobbiamo prendere come un segnale vero e non come un qualcosa che dobbiamo in qualche modo negarci o far finta che prima o poi passerà. Quello è il segnale del nostro punto di fragilità e di potenziale rottura. Professore, come Deborah ha anticipato, parleremo e vogliamo iniziare naturalmente a parlare anche del lavoro, di quanto la mancanza del lavoro abbia delle conseguenze sul nostro equilibrio psicofisico, e quindi è naturale, no? Avere timore, sentirsi fragili, vulnerabili, perché l'incertezza ci fa mancare le forze. Siamo generalmente tristi, sconfortati, vediamo il futuro buio. D'altronde, professor Mencacci, la tristezza e il dolore sono reazioni perfettamente normali, no? Che tutti noi proviamo quando la vita ci mette di fronte a delle prove difficili, come quelle del lavoro, una storia d'amore finita, un lutto, una difficoltà economica. Ma c'è tristezza e tristezza, professor Mencacci. All'apparenza una persona triste può sembrare una persona depressa, ma le due situazioni sono assolutamente diverse. E questo vale perché non è pericoloso trattare una persona triste come se fosse depressa, e anche il contrario. Sminuire, diciamo, la certo. Depressione. Ecco, ma è proprio questo, ma vi ringrazio proprio per la chiarezza che volete fare. Cioè tutti sperimentiamo ad esempio il sentimento della demoralizzazione. Il 100% della specie umana lo sperimenta. Ma tra demoralizzazione o un sentimento di tristezza e la depressione è in un rapporto tra 0 e 10. Demoralizzazione è 0 o 1, depressione è 10, quindi è un concetto che si fa molto sulla quantità e soprattutto sulla durata nel tempo. Queste due condizioni, quantità e durata nel tempo, servono poi a indicare laddove dobbiamo affrontare un tema, diciamo, fisiologico, demoralizzazione, tristezza, da un tema invece che può diventare o è diventato patologico, cioè depressione. E allora queste due condizioni poi sono ben rappresentate anche in quello che succede all'interno del nostro cervello rispetto a quello che succede nel resto dell'organismo. Le dico un dato fra tutti: in una condizione di depressione severa noi abbiamo delle riduzioni di alcune aree del nostro cervello, cioè si riducono di un 20%, soprattutto in alcune aree che vengono oggi molto studiate, per poi tornare alla normalità quando la persona è stata curata. Ecco, questi sono degli indicatori che ci fanno comprendere come dal fisiologico al patologico ovviamente ci siano delle gradualità, e che queste gradualità, quando superano una certa soglia, devono essere affrontate e curate, perché sennò i danni sono veramente danni importanti, sia per qualità di vita ma anche per quantità di vita. Cioè le persone che soffrono di depressione, spesso correlata ad altre patologie, vedi cardiache, vedi metaboliche come il diabete, poi vedi pneumologiche, hanno minor quantità di vita perché hanno tutte e due le patologie, e una, quella della depressione, spesso non viene curata. Cuore e denari. La mia è una morte bianca. Per gli impiegati del settore privato nessuna mobilitazione, nessuna indignazione popolare, nessuna lobby all'opera. Noi non assurgiamo quasi mai agli onori delle cronache. Sembra che non abbiamo famiglie da mantenere o mutui da pagare. Siamo solo colletti bianchi che producono svariati punti di PIL, che altri poi provvedono a bruciare allegramente. Nel mio piccolo vorrei lanciare un messaggio diverso da quello che ci si aspetta da un disoccupato. E cioè un messaggio di ottimismo e di speranza, che nascono dalla volontà e dalla fiducia nelle mie capacità. E questa è una delle testimonianze raccolte dal direttore del Sole 24 Ore, Roberto Napoletano, nel libro Viaggio in Italia. Nel caso di questa persona c'è la voglia, avete sentito, di dare un messaggio di ottimismo, anche se tutta la situazione attorno a sé sembra spingerla ad abbattersi. Sappiamo che purtroppo molto spesso questa forza non si trova, e non è solo il lavoro che può metterci in crisi e portarci anche a vivere la realtà della depressione. Questa malattia può avere altre cause ed entrare nel nostro posto di lavoro e metterci in difficoltà. Allora, in quel caso, come deve comportarsi il lavoratore e come deve comportarsi il datore di lavoro? Ne parleremo nell'ultima parte della trasmissione. Intanto iniziate a chiamarci anche su questo punto, 800 24 00 24. Ti raserò l'aiuola quando ritorni da scuola. Ok, ti voglio bene, ma molla le tue amiche sceme. Professor Mencacci, gli effetti della crisi economica che sembra senza fine, le incertezze legate al mondo del lavoro pesano sulla psiche degli italiani, tanto che il trend nazionale del consumo di farmaci antidepressivi è in forte aumento. A proposito di antidepressivi, è proprio di questi giorni la notizia che il cantante Gianluca Grignani ha giustificato il suo scontro con le forze dell'ordine dicendo che non aveva più con sé lo Xanax che prende per tenere sotto controllo l'ansia. Professore, in questo caso paura, ansia e inquietudine hanno preso il sopravvento, molte persone vivono controllate da pastigliette. Beh, diciamo che la rivoluzione che la psicofarmacologia ha portato negli anni ha consentito di raggiungere cure e qualità di vita impensabili solamente 30-40 anni fa, e la stragrande maggioranza dei trattamenti farmacologici, soprattutto quelli per la depressione, non danno assolutamente dipendenza, sono talmente, come dire, se ovviamente ben amministrati e consigliati da uno specialista, questo vorrei proprio rassicurare, ecco, non che danno deve essere, dipendenza, certo. E soprattutto non modificano il carattere e la personalità delle persone. Però, professor Mencacci, lei ha detto consigliate da uno specialista. Non il fai da te. Quella dell'episodio citato di Grignani sembrerebbe, adesso non so come sono, che più da carenza di ansiolitico, quale è lo Xanax, fosse da commistione di carenza di ansiolitico e di abuso d'alcol. Cioè, io ricordo un tema che noi non vogliamo vedere, quello dell'abuso d'alcol è alla base della stragrande maggioranza degli atti aggressivi e di violenza che si compiono in tutti i paesi, il nostro compreso. Calcoliamo circa il 60%. Certo. Allora, quando poi diciamo è stata la pillola che mi ha fatto comportare così, dobbiamo pensare a che ci sia stata una commistione di alcol e psicofarmaci. Badate bene, normalmente piccole dose di alcol, un bicchiere di vino, due bicchieri di vino, un brindisi non fa indicato in qualunque tipo di terapia. Certo che se poi le dosi aumentano, gli effetti di interazioni possono essere molto forti. Certo. Questo è un dato a tenere presente, ma l'altro dato è quando diciamo non fate da sé. Ecco, questo è importante. Che sono quelli più diffusi, fate conto che se ne vendono diversi milioni di confezioni nel nostro paese, spesso sono gestiti per un passaparola. Ecco, questi nelle persone vulnerabili, che sono circa 4 su 10, possono poi creare problemi di dipendenza. Il trattamento del sonno non può essere un fai da te, un passaparola, bisogna parlarne con uno specialista quando la cosa ovviamente non è quelle due o tre notti che capitano a chiunque, ma quando diventa un problema stabile. Allora, rispetto a questo, usiamo questa opportunità che abbiamo di cure nella maniera più adeguata, finché ci faccia bene e non ci porti effetti negativi. Diamo la parola ai nostri ascoltatori che stanno chiamando all'800 24 00 24. È pronto da un po' il nostro amico dalla provincia di Cuneo, Nicola, che salutiamo. Nicola, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi ascoltatori. Vorrei portare il discorso un pochino su una cosa molto complessa. Io ho la moglie, che è una depressione combinata con un'ansia che tutte quelle persone che li stanno attorno li vogliono male, incluso le sorelle con quale avevo un rapporto molto bello fino ad un certo punto. Adesso li spinge le sorelle, li spinge la suocera, rispinge la sua madre e via dicendo. Sono rimasto in qualche modo l'unica isola, ma anche con me non va molto, è sempre d'accordo. Dall'altra parte non accetta di avere un problema, non accetta, l'ho proposto in varie situazioni, voglio dire che ho passato insieme a lei due o tre momenti in cui ho voluto togliersi la vita. La prima volta ho detto è un teatro, poi ho capito che è una cosa molto grave. Certo. Potrei fare da marito, aiutarla, perché abbandonarla non voglio. Certo. Professor Mencacci, Nicola... È una situazione veramente molto complessa. Sono quelle forme di depressione, adesso la chiamiamo depressione, molto severa, che hanno anche questi sintomi persecutori. Le persone tendono a isolarsi, a vedere tutti gli altri come nemici, sia perché si sentono fragili, esposti, sia perché non riescono a decifrare bene le intenzioni degli altri, che normalmente vengono vissute contro di sé. Però, avendo avuto questi precedenti di gesti anticonservativi, direi che lui ha fatto tutto quanto il possibile, però l'ultimo passo che aveva fatto è prima cercare di convincere delle cure, se però non accettasse delle cure ed essendo la situazione così grave procedere con un trattamento sanitario obbligatorio. Cioè, questa va fatta vedere questa signora da uno specialista che deve assolutamente dire se ci sono necessità di cure urgenti. Questo lo si fa nei confronti di tutte le persone che manifestano o agiscono un proposito anticonservativo, sì, perché questo diventa assolutamente prioritario, il tutelarla. Sì, una tutela che sembra quasi una violenza, no? Professor Mencacci, nei confronti di un'assenza di consapevolezza di malattia. Io aggiungo, con ormai 35 e oltre anni di esperienza, molte volte una gran paura di farsi curare, perché ci sono più fantasmi che realtà. E molte persone, la stragrande maggioranza, poi ringrazia dicendo ma perché non mi sono curato prima, perché sono tornato a vivere la vita, mentre quella vita, così come viene testimoniata, è un inferno. Federico, buongiorno da Bologna, 800 24 00 24, buongiorno a lei. Buongiorno. Spezziamo una lancia a favore dei centri pubblici, no, di salute mentale, Federico, sì, mi pare di capire. Esattamente, io dicevo, mi collego a quel messaggio che aveva mandato quell'ascoltatore, sì, prima, che era un operaio, non poteva permettersi uno psicologo. Questi centri, almeno nel mio caso, sono stati molto utili, il centro dove sono andato io, seguito da una psichiatra, una cura medicinale leggera comunque, io non ho dormito per due mesi e stavo andando praticamente in depressione e ho messo da parte l'orgoglio e ho deciso di andare a farmi curare. Io sto benissimo adesso, sono urinato, lavoro, canto in un gruppo nel tempo libero, ho una vita, ho un figlio, sono felice veramente. Bello Federico, che bella testimonianza, sì, iniezione di ottimismo. Professor Mencacci, Federico, grazie anch'io. Federico è da ringraziare, ma devo dirle che al nostro numero, sì, dei messaggi arrivano testimonianze molto lontane da quelle che ci racconta Federico, quasi a raccontare un'Italia che, per quanto riguarda i centri di salute mentale, i reparti di psichiatria, è un po' a macchia di leopardo. Evidentemente ciascuno racconta la verità che conosce e in base alle proprie esperienze, ma a fronte di una testimonianza positiva come in quella di Federico leggiamo numerosi messaggi contrari, che ci dicono che hanno trovato, scusami, personale distratto, e quasi c'è la sensazione che chi non paga non è ben trattato. Cosa potete fare voi, professor Mencacci, come società? Ma noi come società di psichiatria quello che facciamo è di segnalare le istituzioni, da un lato, che nei momenti proprio di difficoltà economica le strutture sanitarie come quelle psichiatriche devono essere potenziate. Questo l'hanno fatto tutti i paesi del nord Europa e i risultati ce li abbiamo sotto gli occhi. Chi non li ha fatti è come nelle nostre condizioni o in Spagna. La seconda ovviamente è la capacità formativa e l'aggiornamento più scientifico possibile che diamo a tutti i nostri soci. Certo è che quello che dice delle esperienze in tutto il paese è molto variegata. Abbiamo delle grosse, ecco, ma possiamo trovare anche grosse differenze tra una strada e l'altra. Professor Mencacci, ma io vorrei che lei desse un'indicazione chiara. Io vado in un centro, mi trovo male, vedo che mi danno non riesco a risolvere la mia situazione. Cambio, cosa faccio? A chi mi rivolgo? Ne riparlo con il mio medico di base? Diamo delle indicazioni per non far sentire le persone sole, ecco. Il punto centrale è sempre il medico di base, medicina generale, che a sua volta può sollecitare il centro dal quale la persona si è recata se non si è trovata bene, può avviarlo perché c'è anche una libertà di scelta, anche se poi l'organizzazione è territoriale, ma la persona può scegliere anche di farsi seguire pubblicamente, quindi gratuitamente, anche presso altri distretti oltre il suo di competenza. E terzo, esistono dei centri sovrazonali, questo effettivamente sono più nelle grosse città, ma Milano, Torino, Bologna, Genova piuttosto che Pisa, Roma e Napoli o Catania, ci sono dei centri sovrazonali specificatamente dedicati all'ansia e alla depressione. E l'altro consiglio che do è state vicino alle associazioni che si occupano soprattutto di questi temi. Mi permetto di citarle perché sono Progetto Itaca, che è presente in tutta Italia, che spesso è stata anche vostra ospite, piuttosto che Fondazione Idea, che sono delle associazioni di persone che, promuovono anche la buona funzionalità e efficienza dei centri. Sì, e poi soprattutto sono anche composte da familiari di persone, di pazienti, e anche attraverso la rete dei familiari si può provare a superare, e secondo me ce la si fa, a superare il problema, e soprattutto questa vergogna, questa paura di essere etichettati. Cuore e denari. Ma un vero uomo ammette le sue paure. Questo è ciò che vi chiedo di fare qui stasera. Chi vuole cominciare? La paura, parliamone. Le sabbie mobili. Tu stai giocando e pensi che stia andando tutto bene. Poi una cosa va storta e poi un'altra e un'altra. E tu provi a reagire. Ma più cerchi di lottare, più sprofondi. Finché non riesci più a muoverti. Non riesci a respirare perché sei sopraffatto, come nelle sabbie mobili. E siamo tornati insieme, ansia, paura, tristezza, paura di guardare in faccia un po' la realtà, paura di essere etichettato. Abbiamo in linea con noi Claudia, che ci chiama dalla provincia di Brescia, Guido dalla provincia di Guido da Savona. Buongiorno Claudia, benvenuta. Buongiorno, grazie a lei. Io volevo raccontare invece la storia del mio bimbo, uno dei miei tre figli, che ha 13 anni e che purtroppo soffre di ansia dall'età di 3 anni. Ha cominciato manifestando numerose paure, all'inizio era la paura del buio, poi è diventato un po' paura di tante cose. E adesso a 13 anni lui soffre tutt'oggi ancora di insonnia, per cui fatica moltissimo ad addormentarsi, la sera ci vogliono anche 3 ore. E in più ha frequentissimi risvegli notturni, per cui abbiamo tentato, in collaborazione ovviamente con la neuropsichiatra che lo segue, di utilizzare la melatonina a lento rilascio, che aveva avuto dei buoni risultati per cercare di farlo riposare, perché ovviamente poi di giorno e a scuola lui rendeva pochissimo. Purtroppo da qualche mese questa melatonina a lento rilascio in Italia non è più acquistabile, almeno non nei dosaggi che erano effettivamente efficaci. E io volevo sapere dal professore innanzitutto come si può gestire in un bambino, in un ragazzino che adesso sta per diventare anche un preadolescente, un disturbo d'ansia di questo tipo che sta compromettendo molto anche le sue relazioni sociali, per cui lui ha sviluppato da tempo un disturbo antisociale, per cui forse per lui non uscirebbe mai di casa. e noi fatichiamo tantissimo a portarlo immagino, fuori. Claudia. E, ovviamente siamo preoccupati anche per, soprattutto per il suo futuro, ci domandiamo noi genitori cosa certo. accadrà, che adulto diventerà e come possiamo aiutarlo. Noi, lui è già seguito da un centro per disturbi psichiatrici per ragazzini e adolescenti da poco tempo, da ottobre, dove vengono fatte delle attività con un educatore individuale che sono finalizzate un pochino a fargli prendere più fiducia in sé, però non sta facendo ancora della psicoterapia e, come ho detto prima, un farmaco vero e proprio noi non vogliamo per il momento mm-hmm. provarlo. Volevo sapere dal professore però... Professor Mencacci, noi siamo abituati... Che posso sì. dire, visto che mi ha detto che è di Brescia e che i servizi in quel di Brescia mi risultano ottimi, quindi da un punto di vista della questione della melatonina, questo è un dato di fatto ormai dell'ultimo quasi anno, l'unica possibilità è di andare ad acquistare in Svizzera, lì dove si trovano ancora i dosaggi più elevati rispetto in Italia. Rimane una questione di fondo, che è quella di un apposta disturbo d'ansia comparso così precocemente, quindi la probabilità che abbia una componente familiare sono molto forti e che quindi dovrebbe essere anche ben valutato sul tipo di disturbo del sonno. Adesso non so se il ragazzino ha già fatto diverse polisonografie, perché andrebbero ben valutate queste qua, anche per individuare quello che è lo specifico, in questo caso disturbo del sonno, e poi valutare il trattamento. È un'età, e più via via si avvia verso l'adolescenza, nel quale consultare un neuropsichiatra infantile che abbia anche esperienza psicofarmacologica comprovata potrebbe valer la pena. In Italia ci sono alcuni centri di riferimento, in particolare lo Stella Maris di Pisa, che ha una grossa esperienza rispetto questo... a potenziali trattamenti. Ecco, allora... diciamo che la mente in ogni caso dell'adolescente, oggi quello che sappiamo sull'eventuale utilizzo degli psicofarmaci, con molta, sempre molta cautela, comunque può essere un'opzione da valutare, perché il disturbo del sonno, come dire, dobbiamo considerare che è un disturbo che genera non solo nel cervello ma in tutto l'organismo delle conseguenze. Cioè, pensiamo anche al mancato raggiungimento dell'obiettivo di un buon sonno. Professor Mencacci, la ringraziamo per essere stato con noi. I nostri ascoltatori continuano a scriverci, a chiamarci, la nostra mail è sempre aperta. Professore, grazie per essere stato grazie con noi. Grazie di questo spazio che date, e soprattutto alla lotta nel battere la vergogna di dire che si soffre. Questa è una sofferenza come tutte le altre, e l'invito che fate sempre voi è quello: avvicinatevi e non avete paura. Grazie professor Mencacci. Arrivederci. Caro direttore, faccio parte dell'esercito inattivo dei laureati scoraggiati. Ho vissuto 2 anni di gratificazioni grazie a 2 stage. Dopo tante belle parole sulle mie disponibilità e capacità, dopo tanti colloqui senza esito, dopo lavori non pagati, dopo tanti ti faremo sapere e più di 200 lettere di presentazione e curricula inviati al mese per 1 anno e mezzo, ho dovuto lasciare Firenze. Non sapevo più come mantenermi, ho iniziato la disperata ricerca di un lavoro. Sono 3 anni ormai, durante i quali ho provato di tutto. Ho avuto tantissime opportunità gratis nel mio campo, ma nessuna che si è conclusa in modo decisivo. Il ritorno a casa dei miei genitori è stata una scelta obbligata. Voglio solo che lei sappia che ogni mattina mi sveglio e piango, ma non sono l'unica. Piango disperata, non perché io mi sia arresa, ma perché ho perso di vista i miei obiettivi, la mia crescita personale, la mia curiosità, per fortuna non il coraggio. Sono angosciata, sono come un giocatore di scacchi che si sente sotto scacco e cerca la mossa giusta per liberarsi e rimettersi in gioco, ricominciare a costo di dimenticare chi sono. Anche questa testimonianza l'abbiamo tratta dal libro Viaggio in Italia del direttore del Sole 24 Ore Roberto Napoletano. Nei giorni scorsi un articolo del nostro amico e collega Vito Lops del Sole 24 Ore ricostruiva anche La crisi occupazionale italiana ed europea che colpisce molti ragazzi, e questo pezzo ricordava le cifre di questa emergenza drammatica. Dal 2008 ad oggi il numero dei disoccupati nell'Europa ha superato quota, sentite che cifra, 25 milioni. Sono oltre 18 milioni nell'Eurozona e oltre 3 milioni in Italia. Il quadro, Deborah, si appesantisce se si disgrega il dato medio per la componente giovanile, che ha raggiunto picchi ormai non più secondi al dopoguerra in Grecia, Spagna e da noi nella stessa Italia. Il problema dei problemi, no? Come esatto. Diceva Vito, come lo scriveva. Esatto, Vito Lops, che salutiamo in questo pezzo, è che la disoccupazione sta diventando da temporanea a strutturale. Questa crisi ha aumentato esponenzialmente il numero dei disoccupati di lunga durata, quelli che lo sono da almeno 12 mesi, che in alcuni casi, fra cui l'Italia, è superiore a quelli di breve durata, che è inferiore ai 12 mesi. E io vorrei ricordare che, come ha sottolineato Papa Francesco, la disoccupazione fa perdere dignità. Ne abbiamo sentito anche la testimonianza degli ascoltatori che sono intervenuti, lo stiamo leggendo nei messaggi che arrivano al 349-238-6666. Il lavoro non ha soltanto una finalità economica e di profitto, ma soprattutto una finalità che interessa l'uomo e la sua dignità. Se manca il lavoro, questa dignità, scrive e sottolinea Papa Francesco, viene ferita. A quanto pare chi non lavora rischia di veder compromesso anche le qualità psicofisiche. Certo. Allora, che succede nella mente di chi non ha in questo momento un lavoro, di chi lo ha perso, di chi teme che lo stia perdendo e che ha paura magari di perderlo, magari una paura non motivata? Allora, questa mattina noi abbiamo interpellato, gli dico già che deve scavallare e accompagnarci anche nella seconda parte della trasmissione, perché abbiamo solo qui un paio di minuti, nostro amico, un amico di Cuore e Denari, il dottor Mirko Labella, che salutiamo, buongiorno. Buongiorno. Peraltro, buongiorno. Ci sono molti torinesi che si lamentavano fra i messaggi, appunto, di strutture pubbliche non idonee alle proprie esigenze. Magari le mandiamo tutti dal dottor Labella, no? Nicoletta. Ma mi sembra un'ottima idea. Psicologo, psicoterapeuta, professore presso la Fondazione Università Popolare di Torino, nonché responsabile regionale del Piemonte della Società Italiana di Psiconeuroendocrinoimmunologia, perché qua la questione è complessa, quindi spero di averlo detto tutto correttamente. L'apnei, che è la disciplina che si occupa delle relazioni fra il funzionamento del sistema nervoso, del sistema immunitario e del sistema endocrino. Insomma, con questa presentazione noi siamo quasi prossimi ad andare al GR. Vede professor Labella avere una qualifica così lunga? Però un primo commento glielo possiamo assegnare. Professor Labella, appunto, che cosa succede a chi ha perso il lavoro nella sua testa? Allora, chi ha perso il lavoro è ovviamente sotto stress. Lo stress è stato studiato in modo assolutamente approfondito negli ultimi anni e stiamo assistendo a una rivoluzione scientifica interessantissima e profonda. La parola lunga e complessa, che è psico-neuro-endocrino-immunologia, indica proprio questo, cioè eventi esterni e lo stress, se è cronico, è in grado di agire sui nostri sistemi biologici, quindi non soltanto mentali, andando ad alterare e manomettere biologicamente il sistema psicologico, quello neurologico, quello endocrinologico, quindi gli ormoni, e il nostro sistema immunitario. È una sorta di veleno, possiamo dire così, che manda in tilt, che avvelena tutti gli apparati del nostro organismo. Esatto, lo stress in sé è una risposta adattativa che la natura ci ha dato, nel senso che per natura, se mi inseguisse un leone, la mia risposta allo stress è sensatissima. Ma quando diventa cronico, professor Labella, è quello. Cronico, invece diventa infiammatorio, diventa un veleno. Quindi la parola è equilibrio: io mi stresso se ho troppo lavoro, ma mi stresso anche se non ce l'ho. E quindi questo mette a rischio assolutamente la nostra parte biologica. Quindi bisogna andare al di là dell'errore che fece Cartesio, che è di dividere la mente dal corpo. Siamo un sistema, un network integrato. Allora, dottor Labella, le chiediamo gentilmente di accompagnarci a tempo, peraltro, perché lui è anche a lavoro stamattina. Sì. Può stare con noi fino alle 12.30 e farà compagnia ad un consulente del lavoro, Enzo De Fusco, che ci racconterà invece come si deve gestire una situazione problematica, quella della depressione, qualora appunto chiaramente questo ci rende difficile la situazione all'interno del mondo del lavoro, nel nostro posto di lavoro. Cuore e denari. Tu non l'hai capito, tu non l'hai capito. E stringi i denti dietro un tavolo, dentro un ufficio, senza nemmeno avere il tempo di guardare fuori. Così non vedi che già cambiano tutti i colori. E intorno a te la gente si agita, si muove sempre. Qualcuno grida una una protesta che nessuno sente, non c'è un futuro da difendere. Eccoci tornati a Cuore e Denari, quando la depressione condiziona ogni aspetto della nostra vita, anche la situazione nell'ambiente di lavoro può diventare estremamente problematica, a volte può essere il lavoro stesso la causa. La depressione in tutta Europa è tra le principali cause di astensione dal lavoro e dunque è molto importante tenere nella giusta considerazione questo problema, soprattutto quando questo condiziona in misura significativa la performance delle risorse umane in un'azienda. Come deve essere gestita una situazione così delicata, sia dal punto di vista del lavoratore che dal punto di vista del datore di lavoro, ne parleremo con Enzo De Fusco, consulente del lavoro, esperto per il Sole 24 Ore, che salutiamo. Dottor De Fusco, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a voi. Ed è rimasto con noi anche il dottor Mirko Labella, psicologo, psicoterapeuta, responsabile regionale del Piemonte della PNEI, appunto della Società Italiana di Psiconeuro Endocrino Immunologia. Allora, magari diamo lo stimolo al professor Labella, al dottor Labella, non so come chiamarlo, mi sbaglio, professore dottore, gli do tutte le qualifiche, dottore, il caso appunto dell'ascoltatore che ci aveva chiamato proprio per rappresentarci la sua situazione, il suo rapporto con il mondo del lavoro che in questo momento è problematico. Guido da Savona, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ci racconti. Niente, io ho 56 anni e 2 anni fa ho perso un lavoro super sicuro e mi sono trovato da un momento all'altro, non avevo più la sicurezza diciamo economica e famiglia, e vivevo benissimo. A un certo punto, da un momento all'altro, mi sono trovato perso e il problema è che uno non si trova in una situazione che non sa, che perché, sì, e per cui non è pronto, che non riesce pronto, ad immaginare neanche le persone, magari Guido, che hanno dei contratti a tempo super determinato, sicuri, che magari hanno, io pensavo esattamente nella mia condizione, un'idea della provvisorietà di un lavoro no, a scadenza, mm-hmm. Anche in quei casi lì a vederti senza lavoro non riesce a essere preparata, quindi immagino uno shock ancora più forte oggi per come Guido. Sta Guido? Qual è la sua situazione? Niente, ora la mia situazione è che io mi alzo tutte le mattine con questo problema, vado a dormire con questo problema, però io stranamente di notte riesco a dormire, cioè io ho un'ansia che praticamente si blocca fortunatamente. Sì, certo. Io molte volte... Un'ansia diurna e poi la notte porta consiglio. Io vado a dormire e sono contento perché è l'unico momento delle 24 ore che non ho questo assillo, questo chiamiamolo perché così. Il problema è recuperare il lavoro, perché spero di poterlo recuperare. Ma certo. E con i problemi della giustizia lo sappiamo tutti come funziona. E ho il problema di portare a casa uno stipendio, ora un po' di fieno lo senta Guido male. Per capire perché ha parlato dei problemi della giustizia, ha fatto causa all'azienda? Sì, io ho un procedimento penale. Va bene, su questo non entriamo, che dici? E questo è un profilo, dottor Labella, esatto, come cosa dottore. Le suggerisce questo caso di questo ascoltatore che quasi si stupisce del fatto che riesce a riposare comunque molto bene, ad archiviare almeno per le ore notturne le preoccupazioni quotidiane? Certo, allora Guido sta attraversando sicuramente quello che è nel manuale statistico e diagnostico dei disturbi mentali, il DSM, è uno tra gli eventi più stressanti. Si tratta di un cambiamento, quindi la perdita del lavoro, il cambiamento di casa, l'impatto del ricevere per esempio la malattia di la notizia di una grave diagnosi di malattia comporta un'attivazione del nostro cervello che può portare appunto a questo stato di attivazione, di allarme, di allerta di cui parlava il professore stamattina. Allora questo stato di attivazione che Guido sta patendo, insomma, ai noi, dipende dal fatto che la sua reazione di stress, e solitamente l'uomo può reagire allo stress in 3 modi, quindi attaccando se può, scappando se può, ma se non può fare queste 2 attività allora si blocca. Il blocco in questo caso è quello che sta avvolgendo Guido, perché purtroppo il problema è sistemico, quindi le informazioni che arrivano dall'ambiente alla mente di Guido e alla mente di tanti tanti di noi non sono di fiducia e di una prospettiva e di una possibilità e di una, uno Stato che si riesca in qualche modo a prendere cura di ognuno di noi o comunque a dare una prospettiva di senso futuro. E allora quello che succede è che trovandosi in questo blocco scattano tutti gli allarmi di quella parte del cervello che si chiama appunto amigdala, che gestisce le nostre emozioni, che è un segnalatore in quel cruscotto delle emozioni della vita che non va coperto ma va ascoltato, e quindi Guido dovrebbe sicuramente cercare l'aiuto di uno specialista, perché oggi ci sono tecniche che si affiancano in abbinamento o in sostituzione della farmacoterapia che sono altrettanto evidence based, cioè basate su studi di efficacia clinica. Vogliamo ricordarle, dottor Labella? Sì, assolutamente. Allora, una di queste tecniche è l'MDR, che è una sigla, un acronimo che sta per desensibilizzazione e riprocessamento attraverso i movimenti oculari, che è una tecnica che è nata proprio studiando quei disturbi di allarme che hanno per esempio i soldati che tornano dalla guerra, quindi persone normali che vengono esposte a situazioni ambientali anormali e che attivano gli allarmi del nostro cervello. Allora, l'MDR è stato inserito da recentemente nelle linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità come intervento proprio indicato per i disturbi da stress, come nel caso di Guido. E allora l'idea è, se esiste un'associazione italiana che forma i terapeuti, i medici e gli psicoterapeuti in questa tecnica, e quindi è possibile consultare il sito di MDR Italia e trovare il terapeuta più vicino. Sono presenti anche nei servizi pubblici, quindi Guido dovrebbe vedere se nella regione in cui lui abita c'è un terapeuta abilitato a somministrare questo MDR, questa tecnica, in un servizio pubblico, in modo da abbattere anche i costi. Allora, dottor Labella, noi adesso la lasciamo perché devo andare ad Enzo De Fusca, il nostro consulente del lavoro, che ci spiegherà un po' come le condizioni di depressione in un'azienda si devono gestire per chiaramente avere la massima tutela di tutte le parti coinvolte in queste situazioni così delicate, lavoratore e datore di lavoro. Ma le chiedo un commento su quello che ha detto questo professor Marmot dell'Università College, della University College di Londra, che, introducendo il rapporto sullo stato di salute europeo all'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2013, ha fatto questa dichiarazione così dirompente: per la salute pubblica la disoccupazione è una bomba ad orologeria armata pronta ad esplodere. Siamo in una condizione così complicata anche in Italia. Qual è la sua sensazione, che probabilmente incontra persone in difficoltà per la mancanza di lavoro ogni giorno? Certo. Più che sensazione, ahimè, sono proprio i dati che parlano, perché il professor Marmot ha riconosciuto e denunciato, quindi non soltanto nei malumori delle piazze ma proprio all'interno dell'Organizzazione Mondiale della Sanità stessa, questo stato di cose. E quindi a questo punto è veramente curioso cercare di capire quali siano le motivazioni che mantengono il sistema politico fermo in questo protratto immobilismo. Questo professore tra l'altro ha anche concluso con una frase altrettanto di impatto, dicendo che i governanti appunto devono fare attenzione all'impatto delle politiche, perché la disuguaglianza all'interno dei sistemi biologici uccide, cioè la disuguaglianza va a manomettere le basi biologiche della nostra specie. Oltretutto aggiunge che è socialmente ingiusta, inutile e viola il diritto umano alla salute. Quindi la disuguaglianza è intessuta nel nostro assolutamente nella nostra mente e nel nostro corpo a livello biologico. Esistono poi degli studi di una dottoressa che si chiama Eisenberger, che studiando la disuguaglianza ha scoperto con risonanza magnetica che quando noi ci sentiamo disuguali, quindi diversi rispetto a qualcuno e quindi in una posizione di inferiorità, senza poter reagire e cambiare le cose, proviamo lo stesso identico dolore di quando ci danno un pugno nella pancia. E a questo punto diventa realmente un problema di salute, assolutamente certo. Biologico. Dottor Labella, di dolore. Esatto. Dottor Labella, dolore. Grazie. Grazie molte per grazie essere voi, stato con noi. Voi. Buona giornata. E allora, questa situazione di diseguaglianza immagino l'avverta anche una persona depressa nel suo posto di lavoro. Nicoletta, non so se possiamo affrettarci a questa conclusione. Sicuramente avverte una condizione appunto problematica che deve gestire in qualche modo, no? Allora, Enzo De Fusco, veniamo a lei, il nostro consulente del lavoro, una persona immagino poi con una forma particolarmente seria di depressione, non riesce più a garantire all'interno di un'azienda gli standard produttivi che l'azienda stessa si aspetta. Mi chiedo allora quali sono le tutele per il lavoratore, ma anche quali sono le tutele per l'azienda in casi come questi. E poi andremo a capire anche come il datore di lavoro può impegnarsi per ricreare condizioni adeguate affinché appunto magari la persona depressa possa ritornare a vivere il momento del lavoro come un momento positivo. Beh, certamente le leggi sul lavoro tutelano in primo luogo il lavoratore che in questa situazione è certamente parte debole. Esistono delle tutele riguardo la malattia, quindi la depressione è una patologia che può essere può dare l'assenza nel posto di lavoro per un periodo medio-lungo, ma in questo contesto il datore di lavoro ha il dovere di evitare comportamenti che aggravino la patologia. Inoltre lo stesso datore di lavoro deve cercare anche di individuare qual è la mansione più idonea allo stato di salute del lavoratore e deve cercare anche di riqualificare la risorsa, perché l'eventuale assenza proprio per effetto di questa patologia in un periodo medio-lungo potrebbe anche decontestualizzarlo rispetto all'ambiente di lavoro. Poi ci sono i datori di lavoro più evoluti che sono chiamati e hanno istituito anche degli uffici proprio di attenzione al clima aziendale e alla gestione della risorsa, e qui anche tutta una serie di iniziative per favorire il clima aziendale vanno verso la tutela del lavoratore. Sul fronte del datore, al di là dei doveri che abbiamo appena citato, è ovvio che il datore non è lo Stato, il datore di lavoro ha un'organizzazione economica che deve funzionare, e se questa patologia nel lungo termine si traduce anche in una inabilità totale o parziale alla mansione o alla diversa mansione eventualmente individuabile in azienda, allora a questo punto il datore di lavoro può certamente interrompere il rapporto. Allora, tra l'altro, Nicoletta, non abbiamo ricordato che anche su questa parte gli ascoltatori possono fornirci le loro testimonianze. Assolutamente, stanno arrivando numerosi messaggi al 349-238-6666. Mia figlia lavora da 8 anni, le è venuto un esaurimento nervoso, piange continuamente, non dorme più, il clima lavorativo è molto pesante. Ci scrive un'ascoltatrice, i capi urlano tutto il giorno, parolacce, maledizione, lancio di oggetti, sfuriate continuo, un inferno. Lei si è malata, non vuole più andare al lavoro. Il solo pensiero la fa andare in bagno, le provoca vomito. Siamo molto preoccupati, immagino, come genitori. Purtroppo deve pagare il mutuo, ma sinceramente, ci scrive l'ascoltatore, non può morire. No, perché il tema è anche quello. Un conto è, come dire, essere travolti da una situazione di depressione per tutte le cause di cui possiamo discutere. Un conto che la condizione di depressione, dottor De Fusco, sia maturata all'interno dell'ambiente di lavoro e per colpa dell'ambiente di lavoro, perché qua parliamo di situazioni completamente diverse che il datore di lavoro è chiamato naturalmente a gestire, appunto, differentemente. Sì, beh, siamo certamente in una condotta che, se reiterata e volontaria ed è lesiva dell'equilibrio psicofisico del lavoratore, rientriamo in quella che è la definizione classica di mobbing, e quindi bisogna fare attenzione. Quindi io non so quanto possa essere diffusa questa condizione nel paese. Certamente una attenzione alla gestione delle risorse e a un clima aziendale favorevole è sempre più diffuso, perché noi abbiamo una legge sulla sicurezza dei luoghi di lavoro che interviene anche per alcuni aspetti in questi ambiti, e devo dire che oramai il datore di lavoro si sta rendendo conto che certi climi non è più possibile conservarli in azienda. Primo, perché non ti lavora più nessuno e non ti dà nessuna garanzia di performance, e secondo perché ci sono delle conseguenze fino anche di tipo penale, quindi non conviene proprio più a nessuno. Magari questo nel caso della nostra ascoltatrice, forse una condizione di depressione si può scatenare anche se non ci sono dei climi così esasperati, esatto, no? Certo. Ma magari perché si verifica un altro fatto, una mancata promozione che avevamo tanto aspettato, oppure quel sentimento avvertire la diseguaglianza. Esatto, ci un sentiamo trasferimento non voluto, no? Tante situazioni che magari possiamo interpretare come un accanimento da parte del datore di lavoro, che così non solo, ma qua a De Fusco ci sono dei confini molto labili tra una situazione ed un'altra. Condivido con lei, il confine è molto sottile, perché da un lato ci deve essere il datore, che deve essere libero di assumere le scelte più idonee per far funzionare quel microcosmo economico che ha creato. Dall'altro lato poi ci possono essere dei diritti, meglio delle aspettative dei lavoratori, che però non possono considerarsi poi la causa o necessariamente una causa dello stato depressivo. Queste sono dinamiche molto frequenti in azienda, quindi bisogna anche evitare che certe scelte che sono nella piena legittimità giuridica ed economica del datore di lavoro possano essere utilizzate in modo anche come dire pretestuoso sul fronte dei lavoratori. Allora la depressione va rispettata, perché è un tema molto delicato ed è va condannata laddove il datore di lavoro pone in essere comportamenti non conformi alla legge italiana, ma quando invece gli sono consentite delle possibilità, come quello di promuovere l'uno e non anche l'altro, di dare un super minimo all'uno e non anche l'altro, dare un'opportunità all'uno e non anche all'altro, queste sono scelte economiche che vanno rispettate. 800 24 00 24, avete ancora il tempo di intervenire per raccontarci come avete vissuto questo problema in azienda, come si è mossa l'azienda nei vostri confronti, ma spesso si deve anche un po' pagare lo sguardo e le critiche dei colleghi di lavoro. Tanto che qualcuno non lo dice sul posto di lavoro, se lo tiene lì ben stretto questo problema, fino a quando naturalmente poi non si scoppia, e anche lì è un altro tema. Ma defusco, ma secondo lei appunto quando e come questa propria personale situazione così difficile va denunciata sul posto di lavoro? Ma guardi, io credo che su questo punto non ci sia una regola, va vista da contesto a contesto. Io ho la mia idea, mia idea è che noi passiamo un terzo della nostra vita giornaliera nel posto di lavoro, no? E quindi se un terzo lo dormiamo, un terzo lo passiamo in famiglia, l'altro terzo lo passiamo al lavoro. Allora, io credo che queste cose debbano passare per un dialogo. Subire una condizione non favorevole dell'attività lavorativa alla lunga pesa, alla lunga ti fa stancare rispetto al contesto, quindi è bene che il lavoratore ne parli, lo ponga nel modo giusto al datore di lavoro, non magari esprimendosi con termini patologici o comunque di espressione di una patologia, ma manifestando un disagio rispetto a quell'attività o rispetto a quel contesto. A me molte volte mi è stato riferito dalle aziende che i lavoratori hanno rappresentato dei disagi e hanno fatto bene. I datori di lavoro poi sono intervenuti nel creare le condizioni per sistemare questo clima aziendale. Certo. Quindi parlare a mio avviso è sempre meglio che tacere. Defusco, non abbiamo forse il tempo di sottolineare che le donne rispetto agli uomini rischiano di avere maggiori problemi. I dati ci dicono che soffrono di depressione in misura superiore e hanno un carico anche di lavoro e di preoccupazioni che deve conciliare, li costringe a conciliare il lavoro e la famiglia. Ma a proposito, non vorrei adesso fare una differenza di genere, perché appunto non c'è il tempo e ci torneremo con Deborah. Quanto sottolineare che la depressione colpisce tutte le figure lavorative, l'impiegato, il capo, il dirigente? Assolutamente sì, la donna, lasciatemelo dire, è certamente più esposta. La funzione sociale anche all'interno della famiglia e come coniuga questa con il mondo del lavoro rappresenta inevitabilmente un momento di maggiore esposizione alla depressione. Si tenga presente che soprattutto quando la donna partorisce, e ultimamente i parti gemellari stanno aumentando, comportandosi presso anche un maggiore stress postpartum, questa situazione le allontana dal mondo del lavoro per parecchio tempo. Quindi la donna, quando poi rientra al lavoro, il rischio è che trova un'azienda diversa, proprio per le velocissime dinamiche di cambiamento che oggi conoscono le aziende, si ritrova a distanza di un anno e mezzo un'azienda completamente diversa, e quindi lì nasce la depressione, a mio avviso, proprio perché ognuno di noi, ognuno di loro si sentono inadatte al nuovo contesto, e quando ti senti inadatto rischi di essere espulso. Allora qui è necessario, da un lato, che il datore di lavoro capisca che ci deve essere un momento di riqualificazione della risorsa, e dall'altro lato lo Stato deve consentire anche in maniera più incisiva le trasformazioni dei rapporti a tempo parziale, perché se tu trasformi un rapporto a tempo parziale, soprattutto nella fase iniziale della crescita del bambino, tu consenti un alleggerimento dell'esposizione allo stress, e quindi è più equilibrato il rapporto. Insomma, ci sono tanti aspetti da commentare. Torneremo a farlo. Abbiamo stamattina trattato, speriamo, con il tono giusto questo argomento, che è molto delicato. E grazie a Enzo De Fusco per essere stato con noi. A presto. Grazie a voi. Buone vacanze, se ci va presto anche. Speriamo. Lei. Nicoletta, niente, noi abbiamo terminato. Noi ci sentiamo terminato. Domani, esatto. Come sempre, buonissima giornata. Noi torniamo.